primo dicembre, in diretta da Praia a Mare, Cosenza, manifestazione regionale per le bonifiche dei terreni, dei fiumi e dei mari della Calabria. Concentramento ai cancelli Marlane di Praia a Mare alle ore 15. A fine manifestazione, i veleni raccontati da Ulrico Pesce. Basta silenzi, basta tumori, basta vittime dell'amianto e dei veleni tossici, basta discariche. Ascolta la diretta su Radio Transizione di Fase. And Bongo Jazz Speciality.